pubblicata sulla rivista di poesia contemporanea Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia di Ilaria Della Cueva, Angeli. La mia anima urla il tuo nome, nel paradiso ti cerco fra gli angeli. Ti assomigliano, ma non sono te, che mi hai colpito il cuore con una dolorosa saetta. Tu che hai pianto in torrente, lacrime di sangue e solitudine, ora lascia a me questo destino. Infame, infame, grido al vento caldo d'estate, ma solo il silenzio mi risponde. Non sono anni o distanze della nostra terra che ci dividono, ma la tua mente che è fredda porta via i raggi del sole. Innumerevoli notti ho sognato di riaverti, ma poi mi chiedo, ti ho mai davvero avuto?